Quando la gente dorme, scendo giù. Maglione sulle spalle nella notte blu. Nel cuore una chitarra, nella mente cose strane. E sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe van da sole, ah, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.